mia nonna mi sbeffana. In Italia è arrivata a pezzi, non si può andare più avanti, da che hanno messo 6 euro che si paga tutto doppio, i soldi sono pochi, non ci aumentano, non ci hanno dato 2 soldi in più, 2 minuti e poi basta. E poi mi prendiate tutto, non sono stata mai così, se stanno avanti, se ciò cercate da via di pago, da fare cose fatte bene, non da prendiate tutto, che vi mangiate tutto voi, chiacchierate solo e vi appappate tutto, tutti i soldi che fanno, che vi danno dei tassi, mettete tutte le tasse doppie per piante bagnate e bevi nei ristoranti. Vergognate. Balza tutto lo squallore, buttami in chiesa che pregano il Signore. Questa Italia cade a pezzi, che vuoi che voto se non c'è mezzi per capire questi pazzi politici e paparazzi. Io al posto del voto scrivo sti cazzi, tanto non ho soldi e rimango un poveraccio, al lavoro trattato come uno straccio. Qui si chiede un posto fisso quando non c'è più neanche l'incasso. I ricconi aumentano il denaro mentre io faccio a botte e mi faccio il sangue amaro, ma c'ho sempre debiti alla fine del mese. Ti giuro non ho pretese, non sto neanche con le luci accese. Spingo forte questa musica perché lei non tradisce e non mi giudica. Ma gli artisti qui d'Italia, mangiano pane e cipolla e non prendono mai la medaglia. È l'Italia che cade a pezzi, dammi soldi, facciamo a mezzi. Questo disco tu non lo apprezzi, vota Big Bama, c'è posto per Malama. È l'Italia che cade a pezzi, dammi soldi, facciamo a mezzi. Salvezza, sono una troia che spompina di mezza altezza su chi ha calzato un politico, lo sa il suo tipico, per trovare lavoro grazie a quell'amico del politico che vive all'attico. E ancora adesso non ci capisco niente, sono fuso e rimango il solito deficiente. Questo tavolo mi spacca la mente, le farmacie ci godono e gli psichiatri del CIM ancora lavorano, intanto i zingari ancora strimpellano nelle vie del centro e nella metro. Ma lo Stato se ne fotte se non pagano il biglietto, ma se non lo faccio io 100 euro e rimango a stecchetto. Bombe su questo microfono, il mio rap si alza di tono grazie a Big Bama che manda questo suono. Sono parolaccio, sono minacce, io vi metto in croce come Cristo con la mia voce.